Topic of our Dhamma talk this late afternoon is attitudes do matter in the mindfulness meditation practice. Quindi l'argomento del discorso di questa sera è che gli atteggiamenti hanno una certa importanza nella pratica di consapevolezza. Though we may be following the schedule, observing the precepts, restraining the senses, observing silence and following the Satipatthana instructions, yet our meditation practice at times may not be unfolding. Neanche se stiamo seguendo l'orario, stiamo seguendo i precetti, anche se rispettiamo il silenzio, seguiamo le istruzioni del Satipatthana Sutta, potremmo accorgerci che però la nostra pratica non sta progredendo. The reason for this might be that our attitude towards the practice is not helpful. E il motivo di questo può essere che il nostro atteggiamento nei confronti della pratica non è quello appropriato, non ci è di aiuto. Now, let us take first a closer look at a number of unhelpful attitudes, which then will be followed by a number of more helpful attitudes. Quindi prima esamineremo una serie di comportamenti o di atteggiamenti che non sono di aiuto nella pratica, per poi passare invece a una serie di atteggiamenti che invece ci aiuteranno nella pratica. Now, what sudden do you think of the following attitude? And what do you think the predominant mental state underlying this attitude is? Namely, a person has some fabulous experience in a sitting meditation, maybe experiences great calm, and then in the following sitting the mind goes, oh, it would be so nice if I could get that calm back, and will then try to recreate the experience. Allora, cosa pensate di questo atteggiamento e cosa considerate che sia lo stato mentale che sta sotto questo tipo di atteggiamento? Immaginate una persona che ha una fantastica esperienza durante una seduta, per esempio sperimenta una grande calma e nella seduta successiva cerca di ricreare quell'esperienza, dice come sarebbe bello avere di nuovo questa calma mentale. Now that person might further entertain high expectations as to what he or she wants to achieve in the practice, and might also have plenty of wishes and desires. Quindi questa persona potrebbe sviluppare delle grandi aspettative rispetto a quello che vorrebbe ottenere dalla pratica e potrebbero nascere dei forti desideri. No? What do you think? Which mental factor lies behind or underneath this attitude? Quindi cosa pensate? Qual è lo stato mentale che sta sotto questo tipo di atteggiamento, che è alla radice di questo atteggiamento? Greed. Greed and attachment is a form of greed. Indeed. Quindi la brama e l'attaccamento è una forma di brama. No. So for some, this greed will influence the attitude with which he or she is practicing. And this certain attitude clearly does not bring about certain positive results. So if one craves for calmness, that one has experienced in some earlier sitting, and then now in the present sitting the calmness doesn't arise, well then Bikutna, disappointment will follow. E quindi se una persona sviluppa questa forma di attaccamento o di brama nei confronti della pratica, cioè se una persona ha questa brama, questa influenzerà la sua pratica, e quindi un tale atteggiamento, una tale attitudine farà sì che la persona desideri fortemente di sperimentare di nuovo, per esempio, la calma durante una seduta, e se ciò non avviene, questo inevitabilmente porterà una forma di delusione. Now, let's take a look at a different attitude. Here we have a meditator. Or in this case, we have a meditator who, when thinking and speaking of his or her practice, will frequently refer to it as my practice. And then, even if instructions are given, the retreatant will simply just set them aside or put them aside and say that I will follow my way of practice. I will implement my way of practice. And this kind of a meditator in the meditation hall might show much possessiveness with regard to his or her seat, so my seat. Which mental factor underlies this particular attitude? Quindi immaginiamoci un altro atteggiamento, che è quello del meditante che pensa e si riferisce alla propria pratica dicendo: questa è la mia pratica, e quindi sebbene senta le istruzioni di pratica, da un certo punto di vista le ignora, le mette da parte e dice: no, io vado per conto mio, io seguo la mia pratica. E allo stesso modo nella sala di meditazione avrà lo stesso atteggiamento nei confronti del suo posto: questo è il mio posto, il mio cuscino. Quindi la domanda è: che tipo di stato mentale c'è sotto questo atteggiamento? So, how would you answer? Come rispondereste a questa domanda? Identification? Yes, involved here is which mental factor? Ignorance in general, yes. More specifically? Not quite yet. Allora, per adesso le risposte sono state l'identificazione, l'ignoranza, l'orgoglio, presunzione. What's that? Delusion, yes, it's underlying. Tutte queste sono giuste, stanno sotto, ma non è proprio la risposta giusta. Selfishness. Egotismo. What's that? Illusione. Yeah, illusion. Sorry, work on that. Si è stato detto actually, l'illusione. It's wrong view. Wrong view. Believing and clearly holding on to this view of a self, and so with regard to the seat in one's hall, relating to the seat as my seat and my practice and my this and my that. Quindi in realtà è lo stato mentale, diciamo, è quello della visione errata o dell'opinione errata. Quindi uno ritiene erroneamente che questo è il mio posto, la mia meditazione, la mia pratica, quindi c'è questo forte senso del sé. And this manifests even during the interviews, at least during the first few days, when arising retreatant refers to his or her rise and fall as my rising and falling, my pain is giving me trouble, and so on. E questo si manifesta in maniera molto chiara nei primi giorni del ritiro, durante i colloqui, quando il meditante riferisce: questo è il mio addome che si alza e si abbassa, il mio dolore, eccetera. Now, we'll look at a different, or explore a different attitude, this time around a retreatant thinks as follows. Well, instructions are being given at the beginning of the retreat, and then also during the interviews, and this retreatant thinks, oh, I know these instructions already, I really don't need to listen to them. And not even need to implement them. Or, such a retreatant might be competing a lot with his or her fellow retreatants, seeing some as being superior to one's own practice, or seeing others as being about equal, or thinking of others as being inferior to one's own practice. Oppure un altro atteggiamento ancora è quello del meditante che, sebbene abbia ricevuto istruzioni chiare all'inizio del ritiro e anche durante i colloqui, pensa: ma sì, queste sono cose che so già bene, quindi posso anche andare avanti con la mia pratica senza necessariamente seguirle. Oppure può confrontarsi con gli altri meditanti, fare paragoni. Può considerare che un meditante è superiore a sé nella pratica, oppure è uguale a sé o è inferiore a sé. Now, quindi c'è una sorta di competizione. Okay. Now, which mental factor underlies this attitude? E quindi qui qual è il fattore mentale che sta sotto questo atteggiamento? Yes, sì. Orgoglio, conceit. Oh. Pride and conceit. Pride and conceit. Indeed. And so, when pride and conceit is there, then this notion of I am is very predominant. And with this, as a next aspect, comes also this comparing mind, comparing oneself with others in different ways. Quindi quando è presente questo orgoglio, questa presunzione, allora è molto forte il senso del sé, l'io, e quando è molto forte questa presenza, quando è molto presente e forte questa idea, ecco che sorge la mente comparativa, la mente che fa confronti con gli altri. Now, can you see how when a retreatant practices with this kind of an attitude, instructions are being given, and yet the retreatant thinks, well, I've heard these instructions already, so why pay attention? And instructions that might be really meaningful just get ignored. Quindi vedete bene come un meditante che ha questo tipo di atteggiamento pensa: sì, le istruzioni mi sono state date, e sebbene queste istruzioni siano molto preziose, importanti, significative, lui o lei pensa: ma sì, io tutte queste cose le so già, e quindi rischia proprio di perdere delle cose appunto importanti o di ignorarle. No. On occasion, we have retreatants whose attitude is colored by yet a different unwholesome mental state, and certainly in this case, there might be a resistance towards maybe the walking meditation, or there might be a resistance towards the method of practice, or maybe towards the teacher, or maybe towards the place, or towards certain experiences that come up in the practice. Let's say a pain arises, and then retreatant is simply not willing to observe the pain, and instead will immediately change the posture, or even get up and distract himself or herself. E quindi può esserci anche il caso di un meditante la cui pratica è colorata, diciamo, da uno stato mentale molto forte, che fa sì che ci sia della resistenza nella mente, magari resistenza nei confronti della camminata, oppure dell'insegnante, o del metodo che viene insegnato, o del luogo in cui si trova. O potrebbe anche esserci della resistenza nei confronti di un'esperienza avuta, per esempio nei confronti del dolore. Allora in questo caso il meditante potrebbe cambiare posizione, per esempio, se non riesce a stare con il dolore. So, by now it should be pretty obvious which mental factor underlies this attitude. Qui dovrebbe essere abbastanza chiaro qual è il fattore mentale che sta sotto questo tipo di atteggiamento, di attitudine. What's that? Aversion, yes. L'avversione. aversion, or maybe even outright anger or hatred. Avversione che potrebbe addirittura essere rabbia o odio. Now, to practice with an attitude of aversion will, what do you think, make it easy for that retreatant? Quindi praticare con questo atteggiamento di avversione renderà le cose facili per quel meditante? No, obviously not. Ovviamente no. Now, then we have those certain retreatants who would observe the rising and falling movement of the abdomen or some other object, and observe that object time and again, but are not really knowing anything about the object. The qualities remain vague, and the retreatant doesn't even know which object it is. What do you think this attitude is? Poi ancora ci può essere un meditante che osserva ripetutamente l'oggetto, però non gli è molto chiaro quale sia l'oggetto, quali sono le qualità dell'oggetto, insomma gli sfugge un pochino. Che tipo di stato mentale pensate che ci sia dietro questo? Confusion, that's it. And a beginning retreatant, for instance, will, having heard the instructions, yet will still not quite know what to do. Quindi la confusione è un meditante magari alle prime armi, un principiante, potrebbe avere sentito le istruzioni, ma potrebbe non essergli chiaro esattamente cosa debba fare. No, the next one is quite prevalent in certain countries, and in particular also quite prevalent among male retreatants. Now, such a retreatant, or a retreatant who practices with this attitude, will be unconvinced of what is being said, and will not have certainty about the meditation method, the teachings. This certain kind of retreatant might not have too much confidence in his or her ability to do the practice, and Sapna might even have very little regard or esteem for the mindfulness practice. Quindi c'è ancora un altro atteggiamento che è più comune in alcune parti del mondo, in alcuni paesi, ed è più prevalente anche nelle persone di sesso maschile, negli uomini, ed è un atteggiamento che fa sì che il meditante non sia molto sicuro e molto certo riguardo agli insegnamenti ricevuti, riguardo al metodo, e addirittura può avere qualche confusione, qualche dubbio, qualche incertezza anche nei confronti della pratica stessa di consapevolezza. E anche ha poca autostima, cioè è molto incerto anche rispetto alla propria capacità di meditare. So, which mental factor governs this attitude? E qui che stato mentale governa, diciamo, questo atteggiamento? What's that? Skeptical doubt, that's it. Il dubbio scettico. No, skeptical doubt is prevalent more among the women or more among the men? What questo dubbio scettico è più comune, è più prevalente negli uomini o nelle donne? Both. What's that? He says in men. The men, that's it. Negli uomini. He can't say much about women. So, the experience from Burma, as well as from the other countries, is that, in particular in Burma, the women are much more faith-oriented They're motivated by their faith. A teacher will give them instructions and they will take those instructions to heart. They will not even discuss those instructions in their mind and will just implement the instructions full force and or 100%. Whereas typically a Burmese retreatant hears instructions, goes back to the cushion, and then sits there observing the rising and falling and remembering the instruction. Oh, well, that instruction is not for me. It doesn't make sense. And I'll do it, it does not correspond with my life experience, and therefore I'll just set it aside. Quindi la mia esperienza in Birmania, per esempio, che le donne sono molto più orientate o spinte, diciamo, da una grande fede, per cui ricevono le istruzioni, le prendono a cuore, le applicano senza neanche metterle in dubbio, insomma, la fanno pienamente, al 100%. Invece tipicamente un uomo riceve le istruzioni, si siede sul cuscino, comincia a osservare l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome, però poi comincia a pensare, veramente queste istruzioni non sono per me, non fanno al caso mio, non sono coerenti con il mio, con la mia vita, la mia esperienza di vita, e quindi le mette da parte. And so you can imagine, when a retreatant practices with this kind of a skeptical attitude, then time and again instructions will be given, or even without the instructions, time and again a retreatant will have certain experiences and then doubt those experiences and will probably spend a lot of time thinking, considering, could this be, could this not be, and suddenly with this the practice doesn't go anywhere. Quindi potete bene immaginare che un meditante che ha questo tipo di atteggiamento avrà magari delle esperienze, però le mette in dubbio e quindi continuamente starà lì a pensare, a ragionare, ma sarà giusto, non sarà giusto, riuscirò a farlo, non riuscirò a farlo, insomma c'è molta proliferazione mentale e questo fa sì che la pratica non progredisca, non vada avanti. And so even in life in general, outside of an intensive retreat, when one has some project to work on, and one does not agree with it, is skeptical of the mission, then naturally that person will not apply himself or herself wholeheartedly to a project. And so the success rate will probably be pretty low. E questo lo stesso succede nella vita quotidiana, fuori da un ritiro, se uno ha un progetto su cui lavorare, se ha dei dubbi sul progetto oppure non ci crede pienamente, chiaro che non si impegnerà con tutto il cuore, diciamo, a questo progetto, quindi i risultati saranno piuttosto scarsi. No, if a retreatant displays a different form of behavior, namely is negligent in the observation of predominant objects, is forgetful, forgets to label, forgets to observe, just sits there, and practices in an unconcerned manner, maybe also in a casual manner, then what would you say can we trace this to? E quindi se c'è un meditante che pratica in maniera negligente, si dimentica di etichettare per esempio mentalmente l'oggetto o trascura alcune esperienze di pratica, cos'altro ha detto? Appunto è molto superficiale, diciamo, nella sua pratica, che tipo di stato mentale sta sotto, spinge questo tipo di, o provoca questo tipo di atteggiamento? What comes to mind? Cosa vi viene in mente? Sbadato? Sbadato. Sbadato, like distracted. Distracted. What's that? Less effort. No, well, maybe my example wasn't too well constructed, but still some other mental states behind it. Ce n'è ancora qualcun altro di stato mentale? Lei dice poco sforzo? No, no, lei no, be inattentive, being inattentive, heedless. Sì, il fatto di essere non attento, di essere un po' pigro. Superficiality. Well, we're getting there. Torpor, something. No. So, fear of going, of doing wrong. What about absent-mindedness? No, wrongful mindfulness. Quindi è un tipo di consapevolezza sbagliata, una disattenzione, diciamo. No, so one is not really paying attention to what is going on. Cioè, la persona non sta veramente prestando attenzione a ciò che sta accadendo, ciò che so an object comes up and suddenly then one doesn't really care whether one gets to know it or not, and suddenly one passes one's time like this. Quindi sorge un oggetto, la persona non è molto interessato a quello che sta veramente succedendo e il tempo passa così. No. Other wrongful attitudes might certainly be there or might occur at certain times. In just to mention the remaining ones, at times we might have plenty of energy, and certainly with this certainly then our attitude is governed by excessive further effort. And that will not work either. Ci sono altri atteggiamenti negativi, come per esempio il fatto di a volte si ha troppa energia, molta energia, e allora si pratica con uno sforzo eccessivo, e anche questo non funziona, non va bene. And in terms of sloth and torpor, or to express it differently, a lack in energy or effort, there is an attitude of sluggishness, of unpreparedness of the mind for good action, and disinclination to exert oneself fully. E poi per quanto riguarda la pigrizia o il torpore, ci può essere questo atteggiamento nella mente, un po' di, come si può dire, di disinteresse, di non attività, di non voglia di sforzarsi ulteriormente. So could it be that once in a while some of these attitudes that you have practiced with one or the other attitude mentioned so far? Può essere che in un qualche momento nella vostra pratica ci sia stato uno di questi atteggiamenti? Yes, abbiamo Adriano. Praticato uno di questi atteggiamenti. Okay. What's that? You forgot another 20. Oh, another 20. Oh, yeah. Sure enough, there's plenty. Plenty of wrongful attitudes. Now, what we can learn from this is that any kind of attitude that is colored and based, or is based and therefore colored by an unwholesome mental state will usually not work out too well. Quello che possiamo imparare da tutto ciò è che un atteggiamento che è causato o colorato, diciamo, da uno stato mentale non salutare farà sì che le cose non funzionino, le cose non vadano bene nella pratica. And all the underlying mental factors suddenly that color the attitudes described so far, greed and wrong view and pride and conceit and hatred and so on, these are all clearly unwholesome mental states. E tutti gli stati mentali che abbiamo indicato prima come essere alla base di questi atteggiamenti mentali, dalla brama all'avversione, alla visione errata, alla avversione, insomma, tutti quelli che abbiamo detto sicuramente non sono salutari. Maybe to add one more attitude which does occur for some and also causes much difficulties, namely worry. If the mind has this tendency to worry, then when one does the practice, this worrying attitude very much influences one's experiences. E ne aggiungiamo ancora un altro che è abbastanza comune, che è quello della persona che ha la tendenza a preoccuparsi, quindi ha la mente sempre, continuamente, no, in uno stato di preoccupazione, no, ripetuta, e questo sicuramente influenza fortemente la pratica. Yeah. There are quite a number of helpful attitudes, and the one would be an attitude that is strongly based in faith and confidence. Knowing or having much faith in the teachings, in the method of practice, and then doing the practice in this way. Quindi ci sono una serie però di atteggiamenti che aiutano nella pratica. E il primo è avere fede e fiducia, quindi fede negli insegnamenti e fede nella pratica stessa. E questo sicuramente è un incentivo. And a person whose attitude is certainly governed by faith will then find it relatively easy to overcome difficulties. However, a person whose attitude is based in skeptical doubt will face major difficulties. Una persona che è guidata da una forte fede avrà più facilità nel superare le difficoltà che si presentano durante la pratica. Viceversa, chi invece ha una mente governata dal dubbio scettico avrà maggiori difficoltà. Ecco, avrà, per questa persona sarà più difficile superare le difficoltà che si presentano. No. What we're engaged in here is a form of a spiritual search. And this spiritual search for some may be influenced or triggered by some external factors or by some internal factors. Quello che stiamo facendo qui è una forma di ricerca spirituale, e questa ricerca spirituale è, come dire, scatenata e provocata da fattori o esterni o interni. So some of the external triggers that Satna may have brought us Satna here could be the loss of a spouse or partner, a relative or a close friend, or a job, or could be a certain disillusionment with the materialistic world, a disillusionment with the material consumption, which is based on the notion the more one consumes, the more happy one will be. Per quanto riguarda le cause esterne che portano a questa ricerca spirituale, potrebbero esserci la perdita o di un marito, moglie o partner, o di una persona cara, un familiare, un amico, oppure la perdita di un lavoro, oppure una forma di disincanto, di delusione rispetto al mondo materiale, materialistico, diciamo, o a questa idea, a questo concetto che più si ha, più si ottiene e più si sarà felici, no? Quindi una messa in discussione di questa idea. For others, the main trigger could have been an internal factor, such as the experience of a high level of stress or fear or tension or sorrow, or realizing how distracted actually one's own mind is, etc. Per altri potrebbe essere qualcosa di interno, no? La causa scatenante potrebbe essere venire dal di dentro, potrebbe essere un forte stress, una forte paura, oppure rendersi conto di quanto la mente sia distratta, I think I missed sorrow. Una forte tristezza, una profonda pena, diciamo, tristezza. Okay, I think I said tension, stress, those are the ones. Mm-hmm. Okay. But there's still others, of course. Ovviamente ce ne sono altri. Now, then there are few who, out of wisdom, and not necessarily out of some external or internal trigger, then move towards this practice. Però ci può essere il caso di persone che intraprendono questa pratica spirituale in virtù di una certa saggezza, quindi indipendentemente dal fatto che ci siano delle cause esterne o interne. And what then happens next is experiencing a state that seems to be rather unsatisfactory. One then wants to get out of that unsatisfactory state, and thus one wants to move in a new direction. And so some searching then is there, searching for purity, searching for peace or tranquility. Quindi cosa succede quando uno fa esperienza di questo stato di insoddisfazione profondo? Cercherà di uscirne, di cercare una via d'uscita. Ecco che decide di cambiare direzione, di andare in una direzione diversa e cercare un altro stato, uno stato di pace, di tranquillità, purità e di purezza. E purezza. Or one could be seeking true happiness, or one could seek harmony, or maybe mindfulness, wanting the mind to be more concentrated, wanting to gain more and more intuitive wisdom. Oppure una persona potrebbe cercare una maggior armonia, un maggiore equilibrio, una maggiore consapevolezza, una saggezza vera. Or for some, they might be seeking more compassion, more loving kindness in their own life. Una persona potrebbe cercare una maggiore compassione, maggiore gentilezza amorevole nella propria vita. Now, that kind of a surge is a special kind of surge. Questo tipo di ricerca è una ricerca speciale, particolare. Would you say it's an ignoble search or a noble search? Direste che è nobile oppure non nobile? Hmm? Nobile. There you go. And that is just what the Buddha has stated. Proprio quello che ha affermato il Buddha. And so, there's actually a discourse that is entitled Ariya Paryesanatna Sutta, namely the discourse on the noble search. E c'è proprio un sutta, un discorso che è così intitolato, la ricerca. Noble search. No, but the first word. Ariya Paryesanatna. Ah, no. Quindi il discorso sulla nobile ricerca. No, that's a discourse you can find in the Majjhima Nikaya, so the middle-length discourses of the Buddha. Si trova nel Majjhima Nikaya, quindi nel discorsi di media lunghezza del Buddha. And the Buddha states in one passage, and what is the noble search? Here, someone being himself or herself subject to birth, having understood the danger in what is subject to birth, seeks the unborn supreme security from bondage, namely Nibbana. Allora, qui dice, spero di ricordarlo, qual è la ricerca nobile. No, la nobile ricerca. Allora, qui una persona, rendendosi conto di essere soggetta alla nascita, cerca. Avendo capito il pericolo che insito nell'essere soggetto alla nascita, cerca seeks the unborn supreme security, la sicurezza suprema from the bondage, da questa schiavitù, da queste catene. And certainly so seeks Nibbana. E in altre parole cerca il Nibbana. No, along the same line, being oneself subject to aging, being oneself subject to sickness, and being oneself subject to death, one seeks that supreme security from bondage, namely Nibbana. E allo stesso modo dice, sapendo di essere soggetto alla malattia, soggetto alla vecchiaia e soggetto alla morte, ecco che la persona cerca la suprema liberazione da queste catene. The last point cerca il Nibbana, quindi. The last point mentioned by the Buddha is being oneself subject to defilement, and who is not subject to, you know, the arising of defilements. Having understood the danger in what is subject to mental defilement, one seeks the undefiled supreme security from bondage, namely Nibbana. E poi conclude dicendo, avendo la persona realizzato il pericolo insito negli inquinanti mentali, nei difetti mentali, e tutti sono possiedono questi difetti mentali nella mente, ecco che la persona cerca la suprema libertà da questo legame, da queste catene, e cerca appunto il Nibbana. And this sutta, all of sutta, these sutta searches, the Buddha has referred to as a noble search. E tutte queste ricerche il Buddha le ha definite come ricerche nobili. Now, when you reflect on this, on your practice that you're doing here, and when you reflect on the fact that, you know, that you are engaged in a noble search and not just some ordinary haphazard search, then what does this do to your attitude towards the practice? Quindi quando riflettete sulla vostra pratica e la considerate una ricerca nobile, non solo una cosa ordinaria che fate così, questo come si riflette sull'atteggiamento nei confronti della vostra pratica? Does this help? Vi aiuta? It motivates you. There you go. And it might even motivate you quite strongly. È una forte motivazione alla pratica. And sometimes people don't understand when someone goes off to meditate. Never mind. As long as you know yourselves that what you're engaging is a noble activity, then you just do your thing. Anche se alcune persone potrebbero non capire il motivo per cui ve ne andate a fare un ritiro, a meditare, non ha importanza. L'importante è che sappiate voi che state facendo una cosa nobile e importante. Now, during the manager talk, Ajani mentioned the preciousness of a retreat. And that indeed is another aspect to consider: the time that we have here, the opportunity that we have here together, does not arise every now and then, but it's something that occurs only when certain conditions are there. And thus, being aware of the preciousness of our participation in this sutta retreat, then obviously one will want to practice with a wholehearted attitude. E Gianni nel suo discorso introduttivo iniziale ha parlato di quanto sia prezioso un ritiro e di come ed è effettivamente così. Un ritiro non capita a caso, ci sono determinate condizioni che fanno sì che noi possiamo partecipare a un ritiro, allora riflettere su questa preziosità, questo valore del ritiro, ci permette di praticare con un atteggiamento come dire, pienamente coinvolto, ecco, con tutto il cuore. Now, to take it a step further, namely, you think of someone who possesses an old but very precious car. So maybe it's not a car, una macchina antiqua. I don't know whether this expression exists or not. Immaginate una persona che possiede una macchina antica ma di valore. And so this owner of such an old vehicle will then have much interest in it, and at times might participate in a vintage car rally, and then maybe on a daily basis he or she will shine up his or her car, vintage car. Quindi una persona, un proprietario di una tale macchina sarà molto interessato alla manutenzione di questa macchina, parteciperà probabilmente a questi, come si chiama? Rally, questi raduni di macchine d'epoca, e quotidianamente sarà lì a lucidare la sua macchina. And so when such an owner of a vintage car participates in a rally, then he or she will drive the car very slowly, making sure not to bump into another person's car, and also making sure that other cars don't bump into his or her precious vintage car. E quindi quando questa persona porta la sua preziosa auto d'epoca ad uno di questi raduni, farà molta attenzione a guidare molto lentamente, a non andare a sbattere contro altre macchine, o fare in modo che le altre macchine non vadano a sbattere contro la sua. Such an owner of a vintage car might certainly even have a separate garage for the vehicle, maybe even with heating, and certainly if the slightest if the slightest damage has occurred, it will be repaired immediately. Quindi chi possiede una macchina di questo tipo avrà probabilmente anche un garage apposito in cui lasciare la macchina, magari pure riscaldato, e farà sicuramente in modo che se dovesse capitare un qualsiasi danno a questa macchina venga riparato subito. Sì. So, a vintage car is certainly commonly defined as a car built between the start of 1919 and the end of 1930. Quindi una macchina d'epoca è considerata una macchina che è stata costruita tra la fine del 1919, no, l'inizio del 1919 e la fine del 1930. Yeah. And so that particular period is known as the vintage era among those old classical cars. E quindi quel periodo è considerato il periodo di vintage, d'epoca. And so some examples of cars that were manufactured certainly back then, you have the Model A20 automobile, and certainly then the 1925 Flynn car, and a 1926 Bentley Speed 6 Tourer. Ecco, questo è un elenco di macchine d'epoca di quel periodo che non so tradurre perché non ne sarei neanche in grado. And so here in Italy, probably you will have a Ferrari from that time and other brands. In Italia forse avremo una Ferrari, la Balilla forse. No. Think of the owner of the care and respect that the owner of a vintage car has for his or her vehicle. Quindi pensate alla cura, al rispetto che può avere un il proprietario di un'auto d'epoca per il suo veicolo. Now, when it comes to the Dhamma, it is far older than your vintage car. Quanto riguarda il Dhamma, è molto più antico delle vostre macchine, di un'auto d'epoca. Which then means we should practice the Dhamma with even greater care and respect than the owner of a vintage car. Questo significa che dobbiamo praticare il Dhamma con ancora più cura e rispetto di quanto faremmo se fossimo i proprietari di una macchina d'epoca, which leads us to yet another helpful attitude, namely to do the practice with an attitude of care and respect. E questo ci porta a menzionare un altro atteggiamento che ci aiuta nella pratica, e cioè praticare con questo atteggiamento di cura e rispetto. Now, sometimes people treat their own practice in a way that is rather sad. So sometimes we have new people joining at the Satipatthana retreat, and they practice in a way as if they were throwing frisbees in San Francisco's Japanese garden. Frisbees. Yes. Alcuni praticanti possono avere un atteggiamento così un po' triste quando vengono ad un ritiro di Satipatthana, e non capisco bene il collegamento con che traduco. È come se si trovassero in un giardino di San Francisco a giocare al frisbee. They see the attitude. Un giardino giapponese. Giapponese. Oh, sorry. I thought you said San Francisco. No, il giardino giapponese in San Francisco a giocare al frisbee. They treat the Vipassana practice as a hobby. Ah, ecco, quindi trattano la meditazione Vipassana come se fosse un hobby. But the Satipatthana practice needs to be practiced with much more commitment. Ma la pratica del Satipatthana Vipassana richiede un maggiore impegno. Now, we may, overall, when we undertake this mindfulness practice, then we want to do this with an attitude of working towards ever greater purity of our physical conduct, our verbal conduct, and in particular mental conduct. Quindi quando ci intraprendiamo questa pratica, l'atteggiamento che dobbiamo avere è quello di fare uno sforzo verso una sempre maggiore purezza, sia nella nostra condotta fisica, sia in quella verbale, ma soprattutto nella nostra condotta mentale. So the state of the realization of this path of stream entry, and the mind at that point takes Nibbana as an object, is a state of great purity. Quindi quando si raggiunge questo stadio dell'ingresso nella corrente, la mente in quel momento ha entra in uno stato di grande purezza. And so, if we want to go in that direction, we might as well start start working on the purity of our bodily, verbal, and mental conduct. Quindi se vogliamo andare in quella direzione, tanto vale cominciare subito a lavorare per la purezza della nostra condotta fisica, verbale e mentale. Mm. Now, it follows from what Satna was said earlier on about the unhelpful attitudes. They're all based in unwholesome states. And so when we do the practice with an attitude that is based in wholesome mental states, such as Satna faith, such as non-greed, such as non-hatred, and non-delusion, in other words, wisdom, without certain conceit, so humility, and not being lazy, not being skeptical, etc., then practicing with such attitudes will really help our own practice. Quindi abbiamo detto che non aiuta la pratica avere atteggiamenti che sono basati su stati mentali non salutari, viceversa invece ne consegue, diciamo, che sarà di grande aiuto alla pratica invece sviluppare quegli atteggiamenti che sono basati su stati mentali salutari, come la fede, come la non avversione, la non brama, come la non illusione, quindi la saggezza, l'umiltà, quindi il non orgoglio, la non presunzione, eccetera. Ah, and non skeptical. E anche un atteggiamento non scettico. Yeah. Now, over the years during the interviews I've witnessed seen how a retreatant's meditation unfolds quite naturally and certainly also smoothly when a person starts taking much interest in what is actually going on, or develops or practices out of a sense of curiosity, wanting to find out what is going to happen next, wanting to find out how the mind works, how the different physical formations are. Negli anni ho scoperto, insomma, durante i colloqui con i meditanti, che la pratica si sviluppa in maniera positiva e veloce quando nel meditante c'è un atteggiamento di interesse per quello che sta facendo, quando c'è curiosità rispetto ai fenomeni che osserva, rispetto a come funziona la mente o alle qualità dei fenomeni fisici che si presentano. A child that is naturally curious will learn many new things in life. In contrast to a child that learns only because it has to learn. Un bambino che è curioso rispetto a ciò che sta sperimentando, diciamo, sarà avvantaggiato rispetto all'apprendimento, imparerà molto più velocemente rispetto ovviamente a un bambino che invece deve imparare per forza, perché ne è costretto. No. Some other aspects that are there to keep in mind once in a while. Maybe we want to observe objects with an allowing attitude and not just push everything away. Altri atteggiamenti utili sono, per esempio, avere questa attitudine del allowing, del permettere che le cose si presentino, quindi senza volerle spingere via, allontanarle. So, if on occasion, let's say, anger has arisen, then not just to ignore it, but rather, at least for a few minutes, to take the time and to look at this particular mental object, mental factor, and see what it is actually all about. Per esempio, potrebbe sorgere della rabbia, piuttosto che ignorarla o allontanarla, possiamo dedicare del tempo a capire di cosa è fatta, in cosa consiste questo fattore mentale. And so then, as suggested already during the opening talk or the next morning, we want to be as objective as possible in the observation of whatever object comes up. E come ho già detto inizialmente, vogliamo essere anche molto oggettivi rispetto a qualunque oggetto, qualunque fenomeno sorga. Oggettivi e obiettivi anche. And on occasion, or in the world outside of an intensive Phutna retreat, in a highly competitive Phutna world, business world, for instance, there will be certain targets, and you know, one then will do everything to meet those targets. And this involves a certain forceful attitude. So whatever it takes, one will do to get there. So there's a lot of ego involved here. Nel mondo là fuori da un ritiro intensivo, spesso c'è molta competizione, oppure c'è un atteggiamento che fa sì che ci si pone un obiettivo, poi si fa di tutto per raggiungere quell'obiettivo. E questo che è trasferito nella pratica può creare molta tensione nella mente e anche sviluppare un senso forte dell'ego, no? Dell'io, voler assolutamente raggiungere l'obiettivo. And so what we do, when we engage in this mindfulness certain meditation practice, then we don't want to practice with this forceful attitude, but rather adopt a gentle attitude towards certain whatever is certain coming up. E qui nella pratica non vogliamo sviluppare questo atteggiamento, come dire, teso, forzato, ma piuttosto un atteggiamento più dolce, più delicato nei confronti di qualunque cosa sorga. Now, sometimes I encourage retreatants during the interviews to practice with devotion. Now, a type of religious devotion, as you can find it, especially here in this very country. So, a person of devotion will give himself or herself wholeheartedly to something. Spesso nei colloqui io consiglio ai meditanti di sviluppare un senso di devozione nei confronti della pratica, che è un atteggiamento molto comune anche in questo paese. Se una persona si dedica con devozione alla pratica, lo farà, come dire, con tutto il cuore, pienamente, completamente, con tutto se stesso. Okay. Now, there's still other ways that might help to then intensify our practice, and some of those I will briefly mention. Sono alcuni altri aiuti, altri consigli che possono intensificare la nostra pratica, questi li menzionerò velocemente o brevemente. To be very clear, the intensity of one's practice is highly important. Quindi vorrei sottolineare l'importanza della intensità della propria pratica. The Venerable Mahasi said of Burma, the person who was influential in promoting this form of Mahasi style, of Mahasi Vipassana meditation, has illustrated the intensity as follows. Namely, when, and this is many hundreds if not thousands of years ago, before the invention of match sticks, if someone wanted to make a fire, then he or she had to rub two sticks energetically and unremittingly together. And then as more and more heat would develop, then eventually some spark would ignite. Il venerabile Mahasi, che è la persona, il maestro birmano che ha ispirato, promosso questo approccio, questo tipo di pratica, usava un esempio proprio per spiegare l'importanza dell'intensità nella pratica. e diceva che ai tempi precedenti l'invenzione dei fiammiferi, per poter accendere un fuoco occorreva sfregare due bastoni insieme, quindi sfregandoli continuamente si sprigionava del calore che poi avrebbe prodotto una scintilla e poi successivamente il fuoco. No, that certain intensity of one's sadhana mindfulness practice, if one is sadhana not yet very experienced at first, can be a bit too much. E a volte l'intensità nella propria pratica, soprattutto se qualcuno, se la persona non è molto esperta, potrebbe anche essere eccessiva. Now, in which case, one could back off just a little bit and then try again. Gradually, the mind and body will become used to a higher degree of intensity in one's practice. In questo caso, la persona può, come dire, fare un passo indietro e poi riprendere quando la mente e il corpo saranno in grado di gestire, diciamo, la pratica con l'intensità giusta. When you compare how a beginning retreat in practice is in terms of intensity with someone who's doing long-term practice, whose practice is rather well developed, you'll see a big difference. Se si fa il confronto tra l'intensità nella pratica di un principiante e in quella di una persona che ha già una certa esperienza, che fa ritiri intensivi di lunga durata, beh, si vede molto una differenza. No. One way of ensuring a fair amount of intensity in one's own practice is to ask oneself several times when observing an object, what am I knowing about this object right now? And then a few moments later, what am I knowing about this? What am I knowing about the object now? And now? And now? And so on. Un modo per incrementare questa intensità nella propria pratica è quello di chiedersi ogni tanto cosa sto conoscendo dell'oggetto che sorto in questo momento e poi successivamente di nuovo cosa sto conoscendo dell'oggetto in questo momento e poi in questo momento e via di seguito e adesso, adesso, adesso. If you keep up this, what am I knowing now and now and now? Throughout an entire session, I can guarantee you that your practice will take off like anything. Se riuscite a mantenere questo ritmo e a continuamente domandarvi cosa sto conoscendo adesso e adesso adesso, se riuscite a farlo per tutta la durata di una sessione, di una seduta, per esempio, vi garantisco che la vostra pratica prenderà il via, praticamente prenderà il volo. The mind has this tendency that time and again, whenever it gets a little bit tired, then it wants to go on a vacation. La mente ha questa tendenza che ogni tanto quando si stanca vuole prendersi una vacanza. So things that have been mentioned before, slowing down and suddenly coming into the present moment, restraint of the senses, avoiding eye contact, all of those contribute towards increasing intensity of one's practice. Sono cose che abbiamo già detto precedentemente che possono aiutare a sviluppare questa intensità nella pratica e sono per esempio rallentare, limitare i contatti sensoriali, evitare il contatto visivo e anche se ricordarsi di ritornare continuamente nel momento presente. And And then it certainly goes without suddenness saying that if we really want to increase suddenly the intensity of our practice, that we refrain from unrelated activities, be those reading books or extensive letter writing or whatever else. Or these days, sending SMS messages, receiving messages. E va da sé che per sviluppare questa intensità nella pratica dobbiamo evitare tutte quelle attività che non c'entrano con la pratica, quindi la lettura, oppure scrivere delle lettere, o adesso con le nuove tecnologie dovremmo evitare di scrivere gli SMS, i messaggi, leggerli, eccetera. Venerable Visuddhacara, whom some of you will know, a Malaysian background, Malaysian monk, when he did his intensive Phutna retreat at the Maasi main meditation center in Yangon, Burma, and he knew he was going to be on retreat for about 6 months, he told the office staff, please keep all incoming letters for me, and give those letters to me only after the end of my retreat, after 6 months. He did not receive a single letter, he did not read any of those letters. Visuddhacara, che è un monaco birmano, prima di fare il suo ritiro di 6 mesi nel monastero di Yangon in Birmania, ha detto all'ufficio, insomma, di non inoltrare alcuna lettera, di trattenere, diciamo, tutte le sue lettere e di dargliele solo al termine del ritiro. E così è stato per 6 mesi, lui non ha avuto nessun contatto con l'esterno. No, slowing down has been mentioned a couple of times, and oftentimes the proper reasoning is not given why should we slow down. So I think it was last year, so I've made an effort to put together our collective few reasons, and we can then mention the following. Slowing down of one's activities, be this walking or general activities, clearly will support the intensity of one's meditation practice. Allora, abbiamo detto varie volte, abbiamo sottolineato l'importanza del rallentare durante la pratica, ma non sempre questo viene, cioè il motivo di questo viene spiegato. Allora, siccome gli è stato chiesto, Bhante ha cercato di mettere giù, insomma, 2 righe su il motivo per cui è consigliato. E uno dei motivi è che questo sicuramente favorirà una maggiore intensità nella pratica. Secondly, the slowing down very much helps to come into the present moment and to stay in the present moment. Secondariamente aiuta a portarsi nel momento presente e rimanere nel momento presente. And so this slowing down of one's activities further contributes to a development of our mindfulness, our concentration and intuitive wisdom. E questo rallentare di tutte le nostre attività favorisce anche una maggiore concentrazione, consapevolezza e conoscenza intuitiva. No. At first, you might dislike this slowing down of activities and argue, well, why do I have to do this? It seems so forced, it seems pretty unnatural. But when we observe retreatants over a longer period of time, so let's say several weeks or months of meditation practice, then it's very obvious that retreat, as the practice goes deeper and deeper, retreatants will naturally will want to slow down more and more. And it's not the teacher telling the retreatant, please slow down more, but it's something that occurs naturally. E quindi potrebbe non piacervi questo fatto di dover rallentare, potrebbe sembrarvi innaturale, non una cosa forzata, però se osservate dei meditanti nell'arco di una pratica intensiva di settimane o addirittura di mesi, vedrete che man mano che la pratica si approfondisce, il meditante andrà sempre più lentamente, in modo spontaneo, senza che sia l'insegnante a dirgli di rallentare. So to give you an illustration for the benefits of slowing down. When you watch a movie at normal speed, well, you see it as one continuous development of images. But when you watch that same movie and it's being played at a greatly reduced speed, what do you see? Per farvi un esempio dell'importanza di questo rallentare, immaginate di guardare un film ad una velocità normale. Ecco che vedete una sequenza di azioni che insomma scorrono sullo schermo in maniera veloce. Ma se doveste rallentare la velocità, che cosa vedreste? Yes, you see the individual still images, one by one, separated from one another. Quindi si vedono i fotogrammi della pellicola separati uno dall'altro. The same thing happens in the meditation practice. When we slow down, we observe really carefully what's going on, we see so many details that early on we didn't see. È lo stesso capita nella meditazione. Quando riusciamo a rallentare, coglieremo tantissimi dettagli e vedremo molte cose che precedentemente non eravamo riusciti a vedere. To give you another example, when we, let's say, bend an arm. At normal speed, it may appear as one continuous bending process, but when we undertake this bending process really, really slowly and attentively, then we find that it's actually not just one continuous movement, but rather consists of many, many, many small bending movements. Per fare un altro esempio, se doveste piegare il braccio, potrebbe sembrare che questo sia un movimento unico, un unico movimento di piegamento del braccio, ma se lo fate in maniera più lenta, vedrete che in realtà non è un movimento fluido, unico, ma è piuttosto composto da tanti piccoli movimenti. So, what we see first is one thing, and suddenly then by slowing down, what we experience at that point is a different thing. Quindi la cosa che vediamo per primo è una cosa, la cosa che vediamo dopo, quando rallentiamo, è un'altra cosa. No. Some just very worldly benefit. When we slow down our activities, there's less likelihood that after a meal we will drop the napkin. There's less likelihood that we will drop cutlery on the floor. Ci sono anche dei benefici pratici nel rallentare, per esempio quando finiamo un pasto non faremo cadere distrattamente il tovagliolo piuttosto che il cucchiaio, le stoviglie. No, one last point, namely objects and time. There are objects of the past, there are objects of the future, there are objects that are presently, currently arising. Ancora una cosa riguardo agli oggetti e al tempo. Ci sono oggetti nel passato, oggetti nel futuro e oggetti che capitano, diciamo, che si presentano nel momento presente. The objects of Footnote the future have not arisen yet, so we can only imagine what they might certainly be like. The objects of the past have passed already, they're gone. All we have of those is just a memory, but the memory is not the same thing as the actual experience certainly from back then. And thus the objects of the future and the past are considered uncertain objects. The only certain objects are the objects that are presently occurring. Gli oggetti del futuro non sono ancora sorti, quindi sono solo immaginati. Gli oggetti del passato invece sono già sorti, quindi sono solo dei ricordi, e non, che il ricordo è diverso dall'oggetto vero e proprio. Quindi sia gli oggetti del futuro che gli oggetti del passato sono incerti. Invece gli unici oggetti certi sono quelli che sorgono nel momento presente. So if we keep focusing our attention time and again on those presently arising objects, then this will also very much help our practice. Quindi se lo teniamo a mente, continuiamo a focalizzare l'attenzione sugli oggetti che sorgono nel momento presente, questo sicuramente darà una maggiore intensità alla nostra pratica. Allow me to conclude today's Satya Dhamma talk on attitudes and ways to intensify the practice by wishing May you apply some of these certain points. May you see when an attitude of yours certainly is maybe not quite wholesome, and certainly then may you practice with a wholesome attitude, and may this certainly then lead to a smooth and swift development of your meditation, and ultimately may lead you to the realization of Nibbana. Okay. Concluderò questo discorso sui giusti atteggiamenti nella pratica, sui modi per renderla più intensa, per aumentare l'intensità della pratica, augurando a tutti voi di osservare, di capire quali sono gli atteggiamenti non salutari nella vostra pratica e di poter seguire magari qualche indicazione su come sviluppare invece gli atteggiamenti salutari, e che questo possa portare a un rapido sviluppo e progresso nella vostra pratica fino alla realizzazione del Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.